la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Buon lunedì 5 di giugno, sono le 16:32 primi. E vi ringrazio e vi saluto per l'ascolto in diretta in podcast Oscar Giannino. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it. E vi dice subito di che cosa parliamo oggi. Nel mondo scosso dall'atto terroristico a Londra, dagli sviluppi imprevisti nel Golfo Arabico con la rottura tra l'altro monarchia del Golfo e il Qatar, mentre il dibattito politico italiano resta sulla legge elettorale e un po' di attenzione va alla coda dei terribili incidenti a Piazza San Carlo a Torino per la Champions. Oggi un quotidiano italiano, La Stampa, ha pubblicato due pagine piene di dati con un'inchiesta sulla situazione dei profughi emigrati nel nostro paese e traendo spunto da questo profluvio di dati e dagli interrogativi pesanti che questi dati pongono, torniamo sulla questione, che è una questione irrisolta da anni e anni e anni nel nostro paese, che divide la politica con facili a volte demagogie contrapposte e che però nei numeri vive una sconfitta terrificante. L'aggettivo a me sembra adeguato. Allora, io intanto vi ribadisco prima i numeri, poi vi presento i nostri ospiti, perché abbiamo l'autore sulla stampa di questa inchiesta che infila un bel po' di numeri inquietanti e ripropone quindi in termini fattuali i problemi a cui non diamo risposta. E dall'altra parte poi ci siamo affidati all'ANCI per sapere i comuni nella loro azione di interazione con il governo a che punto siamo. Io ricordo a tutti a che punto siamo nella loro interazione rispetto a una gestione più equilibrata centro-periferia del fenomeno migranti, profughi e richiedenti asilo. Vi ricordo solo in ultima battuta, prima di dare i dati, che il ministro dell'interno ieri ha rilasciato Minniti ha rilasciato un'intervista nella quale ha detto tre cose abbastanza pesanti, a dire la verità. La prima, rivolgendosi all'ONG Mare, ricordate la polemica di qualche settimana fa, ha detto: beh, se davvero siete liberi, qualcuno di voi porti i profughi che salvate nell'acqua del Mediterraneo in qualche altro porto europeo che non sia italiano. Seconda cosa, le attese di normalizzazione in Libia attraverso un'azione politica e militare, dove per militare non significa un intervento militare, ma significa la normalizzazione dei rapporti tra la parte di al-Sarraj, la parte di Haftar e tutte le tribù, è attualmente un'illusione. Terza cosa, si può sperare in una strategia soft, ma insomma siamo ancora lontani, con più risorse rispetto a quelle che già l'Italia destina per il patto che ha fatto sottoscrivere a 60 capotribù e un po' di risorse europee, però insomma la realtà è che non possiamo attenderci un esaurimento a breve del fenomeno. Minniti è stato realista. Allora, un po' di numeri su cui riflettere, del fenomeno migrazione, profughi, migranti economici in stragrande maggioranza e coloro che richiedono asilo, poi bisogna vedere a chi è riconosciuto lo status di richiedente asilo per paese di provenienza. Come sapete, nel 2016 sono sbarcati in Italia 181.436 migranti, abbiamo i dati di questo 2017 fino a due settimane fa, fino al 17 maggio, ne sono sbarcati 45.754. L'anno scorso i minori stranieri non accompagnati, sapete che il fenomeno è in verticale aumento, sono stati 25.846 sui 181.000 totali sbarcati in Italia, 25.800 minori non accompagnati, cioè più del doppio rispetto al 2015, in cui erano 2.360, e il dato si conferma in proiezione quest'anno, perché fino al 17 di maggio erano 5.600, quindi più o meno siamo con gli stessi numeri molto rilevanti del 2016. Dove sono ospitati? Nel sistema di protezione per i richiedenti asili, il cosiddetto SPRAR, a cui i comuni sono liberi di partecipare o meno, e su 8.000 comuni 5.300 hanno detto no. Ecco, sul totale dei 177.000 profughi che secondo il dato più recente sono nel totale delle strutture ad hoc diversificate per categoria distribuite nel nostro paese, nel sistema SPRAR sono solo 23.867. La differenza rispetto a 177.000 sta negli altri tipi di strutture temporanee. Pochissimi, un paio di migliaia, sono negli hotspot, mentre la stragrande maggioranza sono nelle strutture temporanee di accoglienza, cioè nei cosiddetti CAS, centri di accoglienza straordinaria, perché al 15 maggio 142.900 sono nei centri di assistenza straordinaria. Nei centri di assistenza straordinaria, mentre il sistema SPRAR sono quelli gestiti in accordo con i comuni, e però sono una minoranza assoluta, la stragrande maggioranza sta in questi CAS, centri di accoglienza straordinaria, in cui i prefetti, come emanazione territoriale del governo, provvedono a trovare nei territori le strutture più o meno adeguate con dei bandi o su chiamata, e sono quasi sempre cooperative che si occupano della gestione dei CAS. Ma, fine del numero, su oltre 20.000 cooperative che restano, che a oggi secondo il registro Viminale sono attivi in questa attività, cioè la gestione dei CAS, meno della metà sono quelli che appartengono alle due grandi centrali, diciamo così, cooperative, Confcooperative e Legacoop. Le altre no, ed è facilissimo creare una cooperativa ad hoc, tre persone di fronte a un notaio, e infatti l'inchiesta del collega della Stampa si pone il seguente problema: ma la stragrande maggioranza, quindi, dei migranti economici, richiedenti asilo, eccetera, che stanno nei CAS e non nello SPRAR, sono affidati in che percentuale a cooperative che nascono ad hoc, spremono, come dice il titolo della Stampa, migliaia di coop improvvisate spremono i migranti e lo Stato? Ecco, e come fa a capire l'inchiesta della Stampa, sono tantissimi. Ecco, quindi, sintesi: non abbiamo un sistema ancora centro-periferia in grado di reggere se non una minima parte degli arrivi. Secondo, ci siamo dovuti inventare l'ennesima struttura d'emergenza, i CAS. Terzo, nella quale i numeri stessi, prima di ogni opinione, ma i fatti, i numeri stessi, dicono che alberga opportunismo, scarsa trasparenza, affari. Ricordo a tutti che cosa dà lo Stato per chi per i migranti che stanno nei CAS? Dà per ogni adulto 35 euro al giorno, in caso di minorenne 45 euro, si tratta di vitto, alloggio, in teoria dei corsi di italiano, formazione al lavoro, eccetera, in realtà zero. E quindi li lasciamo lì per mesi, ricordatevelo, la maggioranza di questi, ripeto, sono migranti economici, dopodiché dopo due anni gli diamo il foglio di via e li creiamo clandestini a casa nostra. Questi sono i dati del problema, per così dire. Andrea Malaguti della Stampa, grazie di essere con noi e grazie della cosa fantastica che hai scritto oggi. Grazie a te, buongiorno. E con noi anche Matteo Biffoni, sindaco di Prato, delegato per l'immigrazione dell'ANCI, appunto. Grazie di essere con noi, sindaco. Grazie a voi, buonasera a tutti. Andrea, innanzitutto correggi qualche errore se l'ho fatto nella sintesi. No, sei stato precisissimo. I numeri, tra l'altro, sono numeri tutti ufficiali, quindi sono molto facilmente verificabili. Purtroppo quello che non è verificabile è la qualità di questi CAS, cioè di questi centri di accoglienza straordinaria, perché le prefetture sono costrette a mandare persone che arrivano a organizzazioni che nascono improvvisamente da un giorno all'altro, e che per esempio in Sardegna fino al giorno prima erano delle strutture alberghiere, degli agriturismi o degli hotel, che non riuscivano a fare affari con i turisti, e che invece con i migranti riescono a farli. Tu infatti nel tuo giro in Sardegna, andando in questa discoteca, fai due conti rispetto al totale di chi, il commercialista, chiamiamolo così, lo chiami così nell'articolo, sì, ha la gestione. Tecnicamente è un commercialista. Allora, che ha la gestione di questo CAS, e insomma, dalle cifre che metti in fila tu, seguendo il resoconto che lui ti fa, incontrandolo, in realtà un sistema di accertamento e di verifica non c'è per evitare che chi gestisce un CAS lucri. No, assolutamente no. Io tanto è vero che quando sono andato poi anche a Montecitorio in commissione per chiedere ma questi soldi è mai rientrato un euro? La risposta è stata evidentemente no. Ma per stare all'esempio specifico, cioè quello di questa ex discoteca che è diventata un CAS appunto, lì ci sono 120 persone, 119, 20 di queste persone sono minorenni e già non potrebbero stare assieme ai minorenni e alle donne, eppure succede lo stesso. Per i minorenni, dicevi tu, sono previsti 45 euro al giorno, per i maggiorenni 35. Totale oltre 130.000 euro per la gestione quotidiana di questa struttura. Scusa, 130.000 euro al mese. Al mese. Lui, questo signore mi diceva, io spendo 30.000 euro per il mangiare, 40.000 euro per le persone che ho assunto, perché ha assunto effettivamente le figure professionali che servono, dei mediatori culturali per esempio, persone che guadagnano, fai conto, 800 euro al mese, quindi costano a lui 1.500-1.600 euro, totale 40.000 euro. Quindi 40.000 euro per chi lavora, 30.000 euro per mangiare, fa 70.000 euro, 7.500 euro il costo della struttura, 3.000 euro erotti per pagare le bollette e fa poco più di 80.000 euro. Facciamo finta che ci siano delle spese straordinarie adesso, che io non riesco nemmeno a immaginare, per 10.000 euro, vuol dire che a lui rimangono in tasca, nette, legalmente, 40.000 euro, che sono quasi mezzo milione di euro l'anno. Per fare che cosa? Fondamentalmente niente, per contare i soldi, perché lui assume 24 persone e non ha responsabilità di fatto, perché i maggiorenni entrano e escono da questo centro assolutamente come vogliono. E la cosa che a me ha colpito stando lì era vedere che c'erano queste ragazze nigeriane che salivano su delle macchine, venivano portate altrove a prostituirsi e poi riportate lì. Entravano tutto tranquillo. Allora uno dice va bene, però avranno avuto attenzione per i minorenni, li avranno portati a scuola, avranno fatto qualcosa per loro. Niente, nessuno di questi ragazzi sapeva una parola di italiano, nessuno di questi ragazzi che stavano lì da mesi e mesi, da 7 mesi, nessuno di questi ragazzi aveva fatto un giorno a scuola, e questi ragazzi venivano dicendo così noi diventiamo matti, era meglio morire in mare perché qui stiamo buttando veramente via la nostra vita. Quindi qui è evidente che l'incrocio dei problemi è enorme, e come sempre noi siamo straordinari nell'emergenza, perché quello che fa l'Italia per accogliere queste persone in mare è incredibile. Poi sulla gestione ordinaria siamo a dir poco sgangherati. Stiamo parlando di 4 miliardi e mezzo l'anno? Stiamo parlando di questo, tant'è vero che quando si parla con le associazioni che si occupano di queste cose, mi viene in mente appunto Monsignor Perego, che è l'arcivescovo di Ferrara, ma soprattutto il presidente di Migrantes. Lui ti dice, ma se quei soldi venissero distribuiti poi nei comuni dove ci fosse la possibilità di accogliere 3 migranti ogni 1.000 persone, e cioè un numero di cui non ti accorgi fondamentalmente, distribuendoli su tutto il territorio nazionale, eviteremmo situazioni di tensione, perché è ovvio che tu oggi porti 300-400 persone in luoghi dove vivono magari in comunità di 400-500 italiani, e quindi è evidente che non può funzionare la commissione, non funzionerebbe neppure se portassero altri italiani in luoghi così, no? Figuriamoci, ma ce ne chiede, certo, se portano delle persone che in realtà hanno una visione del mondo completamente diversa dalla tua. Solo che in Italia, a differenza di quello che succede in Svezia, dove c'è una legge che dice quando arrivano i migranti vanno divisi sul territorio nazionale, non siete d'accordo? È lo stesso. In Italia no, lo dicevi tu prima, se un comune decide che non li vuole, non li prende, con un paradosso ovviamente, che tu non li prendi, ma la prefettura te li dà. Esatto. Te li dà concentrati, però tu hai il vantaggio che puoi dire ai tuoi elettori, visto, mi sono opposto, per cui siamo veramente in una situazione patetica dal mio punto di vista. Sì, difficilmente comprensibile da ogni punto di vista, perché sì, li teniamo, li fabbrichiamo l'80% circa, li fabbrichiamo dopo 2 anni di questa... Bravissimo. Come clandestini, li nominiamo clandestini sul campo, perché il foglio di via e basta, questo significa, quindi li consegniamo, se restano in Italia, rete criminale, lavoro nero, eccetera, eccetera. Spendiamo un mucchio di soldi e dai soggetti che le gestiscono, visto che più della metà non ne sappiamo quasi niente, e in assenza di un servizio di controllo non siamo in grado di sapere come, ma basta che un collega come te vada a prendersi la briga di sbattersi e a ficcare il naso in uno di queste casse, Lezioni di italiano non sono obbligati a seguirle, formazione professionale non se ne parla neanche, lì rinchiusi ma liberi anche di andarsene a fare qualunque cosa durante il giorno. Ma c'è persino di peggio, no? Cioè, questa è la realtà, ma c'è persino di peggio, perché poi io sono andato in Sardegna, ma sono andato anche a Bergamo, dove invece questi centri di accoglienza funzionano, dove la fanno la formazione professionale, dove ti portano a scuola, dove investono su di te, dove addirittura nel corso di questi 2 anni in cui tu rimani ti mandano a lavorare in delle aziende vere, dove in realtà sei assicurato, sei e la seguito. Domanda a quel punto diventa: ma perché non è possibile immaginare di fare dovunque come a Bergamo? Esattamente, no, ma poi più di questo, perché queste persone, appunto, 8 su 10 sono migranti economici, lo sappiamo prima, vengono da zone dove non c'è la guerra. Noi le formiamo professionalmente, poi dicevi tu giustamente, gli diamo il foglio di via, non è che questi hanno il foglio di via e dicono beh allora adesso torniamo a casa, certo. No, e vanno a cercarsi un lavoro da un'altra parte. E a Bergamo mi dicevano, io l'ho trovato anche questo, una fotografia di questo paese incredibile, mi dicevano: sai dove vanno? Vanno, una parte va a Roma a fare gli ambulanti, una parte va a Napoli a lavorare nei campi, una parte va a Foggia a fare l'allevatore, cioè a mungere le mucche, in cambio di 10 euro al giorno vitto e alloggio. E uno dice: ma no, perché non stanno da voi a Bergamo? Beh, come perché? Perché da noi non c'è il lavoro nero, perché da noi se uno entra in un posto per lavorare gli dico: ti diamo l'assicurazione, abbiamo bisogno di pagarti uno stipendio. Questo è veramente... Allora, adesso noi abbiamo un minuto di informazione sul traffico e poi con il sindaco di Prato tentiamo di capire, di fronte a questa realtà che abbiamo tentato sinteticamente, cifre approfondite, tavoli, numeri eccetera, trovate su queste 2 pagine sulla stampa di oggi, pagina 14 e 15, vale la pena di comprare la sinistra lettore della stampa, vi garantisco, di Andrea Malaguti, e con il sindaco di Prato Matteo Riffoni tra un minuto tentiamo di capire a che punto siamo nel rapporto tra comuni e governo su questo. Un minuto. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... La versione di Oscar. Eccoci qui tornati a parlare delle cifre attuali del problema migranti, rifugiati, richiedenti asilo nel nostro paese. Come avete visto, 6 volte il numero dei 170.000 attualmente in struttura pubblica sta nei CAS straordinari rispetto a quelli del SPRAR. E allora, col sindaco di Prato, che è delegato all'immigrazione dell'ANCI, la prima questione è: ma invece di consentire ai sindaci la facoltà di non partecipare allo SPRAR e però vedersi poi il prefetto che mette in piedi i CAS, non sarebbe meglio levare la facoltà di sottrarsi ma affidarvi la gestione diretta con più controlli di questi 4,5 miliardi? Lei che dice, sindaco? No, io non sono convinto che l'obbligatorietà sia la strada. Per quanto riguarda anche la Svezia stessa, obbliga, nel senso è lo Stato che a un punto impone la presenza sui comuni. Attenzione, lo SPRAR è un sistema che ha dato grandi risultati, che sta dando grandi risultati. Io l'inchiesta del dottor Malaguti mi ha riempito il cuore, perché è straordinariamente efficace nel raccontare quello che è un sistema organizzato, Bergamo, ma io lo dico, fatemelo dire, con malcelato orgoglio. No, non solo Bergamo, c'è in Italia. Certo, lato, io parlo dalla Toscana, certo, dove ci sono straordinarie esperienze. Dall'altro lato un sistema, chiamiamolo così, emergenziale, che emergenza però non può essere, che è quello che è raccontato del caso della discoteca sarda. Il problema è che lo SPRAR funziona perché lo organizzano i comuni, esatto. lo organizzano, ma nel senso c'è una volontà politica. Sono d'accordo. Alle spalle significa che io, affidandomi, e qui l'altro grande tema che il dottor Malaguti chiarisce molto bene, affidandomi o a risorse proprie se posso come comune, oppure a un gestore affidabile del sistema della casa, esatto, delle cooperative, esatto, dell'ARCI, del variegato mondo dell'affidabilità, diciamo così. Esatto, no, non di quelli nati ad hoc, non si capisce da come, con che esperienza. Bravissimo, dottor Giannino, assolutamente perfetto. Io costruisco un progetto che dentro c'è ovviamente l'insegnamento della lingua italiana, quella che un tempo si chiamava l'educazione civica, basamenti del nostro sistema sanitario, e poi l'accompagnamento verso la formazione per quello che può essere. Però, sindaco, mi sta dicendo che se appunto fossero i comuni a gestire sarebbe meglio. Però, però ci vuole la volontà, perché se io, sa qual è il rischio che vedo io dell'obbligatorietà? Però sono disposto a discuterne. Il rischio che vede è questo: se io la impongo una progettualità del genere a un sindaco, a un'amministrazione che non lo vuole fare, ha tutto l'interesse, mantiene l'interesse a far sì che un sistema che invece ha dato risultati positivi salvi. Sì, non però, dia delle risposte. Però scusi, ho un'obiezione per far capire ai nostri ascoltatori rapidamente. Però se fosse tutto ai comuni sarebbe rispettato quel rapporto, il 2,5-3 per migliaio di abitanti, che significherebbe diffusione su tutto il territorio nazionale, cioè evitare la concentrazione che rende il fenomeno ingestibile, di forte impatto sugli abitanti, magari nelle parti a basso reddito dell'Italia, eccetera, eccetera. Cioè è un problema per i sindaci elettorali, chiaro. Mi fa ragionare così. Guardi, io, noi come sistema ANCI, io il presidente De Caro e prima il presidente Fassino, abbiamo instaurato una lunga discussione con il Ministero dell'Interno che ha portato proprio a questo risultato. L'accordo è: bene, siccome ognuno, anche noi riteniamo che se tutti facessero la propria parte, i numeri, perché poi bisogna essere onesti, in questo momento, lei dottor Gianni ha dato in maniera molto puntuale i numeri dell'accoglienza, siamo sostanzialmente a 180.000 in accoglienza, sì, un sistema sì, di 60 sì. milioni di abitanti, che sia una questione non semplice elettoralmente complicata è evidentissimo, lasciamo stare, ma se razionalizziamo un attimo possiamo capire che un paese come l'Italia, se fa un piccolo sforzo di diffusione, 180.000 persone le può gestire in maniera dignitosa senza creare tensioni sui territori che accolgono, che è l'altra parte della medaglia. Certo. È ovvio che ci deve essere una diffusione. Il sistema toscano, che è un po' l'architrave, cioè il punto di riferimento, si basa su questo. I nostri numeri sono 13 soggetti di media a centro di accoglienza, quindi con numeri, come dire, molto diluiti sul territorio. O anche noi facciamo fatica, però diciamo questo sistema dovrebbe diventare nazionale. Non ci riusciamo perché in questo momento il sistema dei CAS, che è partito quando è scoppiato il fenomeno, il fenomeno adesso va, come dire, rigestito, rimodulato, perché i numeri, come diceva lei giustamente, sono clamorosamente sbilanciati. Ci vorrà tempo. Però che cosa sta succedendo? Sta succedendo che nell'accordo che prevede appunto la cosiddetta clausola di salvaguardia, cioè un numero massimo di persone sul proprio territorio per quelle amministrazioni che aderiscono al sistema SPRAR, i numeri del sistema SPRAR appunto stanno implementandosi in maniera significativa, perché i sindaci stanno capendo e gli conviene. Speriamo. Perché il problema è, capisce, che siccome lo squilibrio è tale che il riassorbimento, siccome continuano ad arrivare tempo, a ritmi del 2006, esattamente, però lei dice la prospettiva è imboccata, ci vuole tempo. Il problema è, cari ascoltatori, che più non gli facciamo fare attività, meno c'è la possibilità di renderli legali davvero e di riconsegnarli a criminalità, lavoro nero, clandestinità, eccetera eccetera. E da questo punto di vista io capisco la politica e la diversità di atteggiamenti su questo fenomeno qua, ma più si accentua la concentrazione di fenomeni incontrollabili per i sindaci. Vabbè, però sono passati anni e anni e non siamo riusciti a risolverlo. Grazie a quello che fa il sindaco di Prato e l'ANCI su questo, quindi grazie a Matteo Bifoni, grazie a Andrea Malaguti che oggi ha scritto una bellissima pagina che spiega a tutti che i giornalisti bravi e i giornali che pubblicano queste pagine così servono ancora e come. Grazie di cuore da parte mia. Continuate su Radio 24, appuntamento con me, Alessandro Mina, domani alle 8:20, attenti alle 2.